Una buonasera a Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, come ama dire il mio collega. Ah sì, ma a me non piace la Radio Metropolitana. No, non ti piace, lo so. C'è una voce un po' da cantina, adesso ecco, vedi. Sei un po' equilibrato. Perché quella il genio della regia. Perché quella era la mia equilibrazione. Lo so, ci caro, siamo spostati per esigenze di copione. Sì, siamo veramente non metropolitani, ma troppolitani. Questa caro, citazione, sei furbo. Grazie, adesso lo sai che la furbizia è sempre stata uno dei miei aspetti, dote. Sì, una dote come quella che danno al matrimonio, ci siamo anche un po' sposati, però ultimamente siamo stati un po' separati. È vero, hai ragione. Questa volta è dopo un bel po' di tempo che siamo in coppia, in collettivo. Ti sono mancato, caro. Moltissimo, no. Ma tu non l'hai detto in radio quando mancavo io? Ah beh certo, non ogni volta mi ero pure un po' rotto le balle, perché sempre a dire qua manca Eliseo, alla fine dicevo sì vabbè, ma che lo stai a dire, tanto lo sentiamo, no? Che manca. Ricordiamo agli ascoltatori chiaramente 451 Frammenti Sonori, che riparte appunto come diceva il buon Max in dinamica collettiva, chiamiamola così, anche se è una forzatura, siamo sempre solo in due, anzi in tre, perché ricordiamo anche in quattro, giusto, anche in cinque. Ma questo è un altro discorso. Però comunque salutiamo il nostro caro collaboratore del blog e non solo di 451, Lorenzo Albano, e ricordiamo anche il nostro blog per coloro che fossero intenzionati ad ascoltare le nostre trasmissioni vecchie, nuove, sempre e future, futuriste, www.frammentisonori.noblogs.org. Ce l'ho fatta, Hai visto. E questa sera puntata straordinaria di 451, non soltanto perché siamo tornati in due, in tre, ma perché questa sera troppolitani, non è casuale, abbiamo 451 contro Antonio Rezza. Versus. Cara, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, giustamente, certo. Ricordiamo, perché il progetto è poi che porteranno a Bologna proprio dal 6 al 9 di aprile ai Teatri di Vita, dunque ovviamente l'abbiamo già inserito nel nostro blog, l'abbiamo già annunciato nelle puntate precedenti, ormai da due puntate, assolutamente da seguire, dunque invitiamo tutti gli ascoltatori e non solo, anche i non ascoltatori ad andare, perché merita come al solito il grande Antonio Rezza. Come e fanno a andarci poi i non ascoltatori? E che ne so, vedranno qualche manifesto oppure nelle frequenze delle nostre terre paludose bolognesi e padane. Frequenze telepatiche, padane. Frequenze telepatiche, non solo. Le padane, sì. Vabbè, le padane. E caro, allora, cosa vuoi dire? Cosa hai preparato? Fondamentalmente l'idea appunto, stasera affronteremo appunto una puntata speciale, come diceva il buon Max, 451, VS Antonio Rezza e Flavio Mastrella, e affronteremo il nostro percorso solito, però ovviamente collegato, un discorso legato allo spettacolo e non solo, dunque teatro, artisti che si muoveranno su questi territori, abbiamo cercato anche di coniugare gli artisti di stasera, che inseriremo soprattutto nella seconda parte dopo il GR di Radio Popolare Network, dopo dunque mezzanotte e mezza, intorno all'una meno 10 fino alla fine della trasmissione, che andrà avanti fino alle 2 ed oltre, autori, riferimenti anche rispetto a Antonio Rezza e Flavia Mastrella, e anche ovviamente autori, musicisti e creatori nell'ambito tra teatro, musica e sperimentazione, dunque viaggeremo su queste tematiche. E per aprire abbiamo deciso di mandare alcuni frammenti tratti da opere realizzate sempre da Antonio Rezza e Flavia Mastrella del 95, in particolare manderemo tre estratti che sono Fiorenzo, Raptus e il telefonetto, e poi una piccola chicca, una piccola sorpresa simpatica musicale, interamente musicale, che inseriremo alla fine di questi tre frammenti, e poi si vedrà. E poi vedremo. Grande sorpresa. Trasmissione aperta, pure noi siamo un po' aperti. Sì, in tutti i sensi, in testa soprattutto. Sì, di testa. Ma anche da qualche altra parte, non dire queste cose che dopo ormai ce la siamo giocata la faccia, sì, non solo quella, la faccia appunto. Andiamo? Certo, vabbè, vai caro, andiamo, caro, caro. Andiamo. Fiorenzo sta male, dobbiamo fare qualche cosa. Si potrebbe cominciare a spargere la voce che Fiorenzo sta male. Questo è tutto quello che possiamo fare per Fiorenzo. Di più non si può fare. La malattia. rende più sensibili. Fiorenzo apprezzerà. Si è saputo che Fiorenzo sta male. Ma chi, Fiorenzo? L'ho incontrato ieri sera, stava un torello, stava in salute. Sprizzava salute da tutti i pori, Fiorenzo. I pori di Fiorenzo si sono chiusi per sempre ormai. L'unico poro che rimane aperto è poro Fiorenzo. Ma come sta Fiorenzo in salute? Come sta? Sta uno straccio, sta uno straccio. Sta uno straccito, sta. Non sarza più. I divide. Non sarza più. Voi già lo siete stato a trovare, Fiorenzo? Noi siamo due persone. O andiamo a trovare Fiorenzo, o organizziamo tutto quello che ruota intorno alla malattia di Fiorenzo. Sparge la voce, tipografia, manifesti con scritto Fiorenzo sta male, forse schiatta, volantini. Fatemi sapere. Tenetemi aggiornato. Fiorenzo sta sempre peggio. Si comincia a parlare di ricovero. Speriamo che la piglia bene, Fiorenzo. C'è una buona base culturale. Le basi di Fiorenzo si sono chiuse per sempre ormai. L'unica base che rimane aperta è la base di ricovero. Lo voglio andare a trovare. Prima che lo ricoverano, lo voglio andare a trovare. La gente che sta male non ci si va a trovarla, è svergognato. Se ne parla, ma non ci si va. Non ti si dà sta soddisfazione. Vergognati solo a pensarlo. Immorale. Vergognati. Fiorenzo sta brutto brutto. L'hanno ricoverato stamattina. Sta alla frutta ormai, Fiorenzo. Sta cominciando a sgocciolare. Lo voglio andare a trovare. Prima che schiatta. Lo voglio andare a trovare. Ma dove te ne vai? Volemese bene tra di noi che stiamo in salute. Che chi sta male ha fatto una scelta. Volemici bene tra di noi che stiamo coloriti in faccia. Che chi sta male se le andate a cercare. Fiorenzo si è morto. Stamattina. Ha finito di soffrire. Non si è mai trovato un attimo per andargli a trovare. Questi capelli. Questa protesta che rinsecchisce nel tuo stile trasandato. Volete sembrare tutti diversi e invece siete tutti uguali. Questa faccia che porta involontariamente a spasso un corpone. Questi lividi così campagnoli. Questi graffi, queste urla colpevoli. Queste chimosi che sviliscono la civiltà dell'apparire. E questa morte così prematura. Volete sembrare tutti uguali e invece siete tutti morti. Che fai? Parli da solo? No, telefono. Strano, non vedo cabine. C'ho il telefonetto. Non squilla mai. Lo uso come prolungamento della sessualità. Sei represso. Sono un poveraccio. Eri poveraccio. Ragazzo, dolce visione, ancorato al servizio pubblico, profumo di antico. Azienda telefoni, mi si è guastato il telefonetto e non transistor più. Il telefono è un mezzo indiretto. E come tale amplifica l'ipocrisia della dialettica. Ho perso il lavoro. Non ti preoccupare, lo ritroviamo. Tutto si è perso. L'ho perso al ministero. E beh, lo ritroviamo. Quando poi sei grosso il ministero, lo mettiamo sotto sopra. Ho perso pure tutti gli amici. Non ti preoccupare, li richiamiamo. Li richiamiamo tutti. C'è che di far mente locale di tutti si persi. Ho perso anche la fiducia. La fiducia del prossimo. L'ho persa. Tranquillo, ritroviamo pure quella. Io sto a fare la lista. Hai perso lavoro, amicizia e fiducia. Ritroviamo tutto. Ho perso anche la fede. Ecco qua, aggiungo io, se ne trova, basta ricostruire gli ultimi movimenti, su, ottimismo, ritroviamo tutto. L'ho perso l'ottimismo. E che ci ho? E tu ti sei perso, tu ti devi fare sempre questa domanda, dove stavo, che facevo, che movimenti facevo, ritroviamo tutto. Ho perso anche l'entusiasmo. Ecco qua, aggiungo io, entusiasmo, guarda, c'è stai da lavorare. Tanti, però ritroviamo tutto. E l'ultima cosa che mi sono perso sono stati i soldi. proprio un ragazzo. Ecco, ci sentite? Si sente la nostra voce? Assolutamente sì. Ci siamo. Avete fatto un capolavoro perché avete... Ma quale capolavoro? Il radio. Il silenzio in radio, cioè le stipacchiate, quelli sono cortometraggi che hanno... erano cortometraggi degli anni 90 che avevano un ritmo abbastanza dilatato. Quindi avete mandato le pause per radio, che non succede quasi mai. Insomma. È una cosa bellissima, avevamo sempre sperato che accadesse. Vedi? Andavate solo le pause, era... Sì, la storia questa puntata, perché le parole... cioè non mandavate le parole, insomma. Comunque abbiamo sentito... quando fuma, le spippacchiate, le urla, ha tutto un altro significato. Poi sembra più sentenzioso, no? Il parlato sembra molto più... sì, senza l'immagine. Senza l'immagine che smitizza sembra troppo di giudizio, però eravamo così e ben ci sta. Quindi suona bene a livello audio e basta? Rezza suona bene? Fabio Mastella e Rezza suonano bene a livello audio? Sì, è divertente, vabbè, noi li sappiamo, ci conosciamo. Cioè, per noi è stato divertente sentirli per radio, perché non li avevamo mai sentiti per radio, li avevamo sempre visti questi testi insieme alle immagini, insomma. Ma effettivamente noi, quando abbiamo, diciamo, programmato e studiato un po' l'idea di iniziare con questi frammenti video, poi, che hanno questa parte audio, abbiamo verificato se reggevano e che tipo di frequenze, che tipo di suono provocavano, effettivamente secondo noi erano molto molto interessanti anche con queste pause. Infatti noi spesso, anche all'interno delle trasmissioni che facciamo, alle volte le pause sono proprio dentro delle composizioni musicali, per citare soltanto certe opere di un famosissimo compositore come John Cage, che è passato diverse volte da noi, da 451, dunque sta anche dentro i nostri tempi, i nostri spazi sonori, no? Ma, il vostro nero, è il vostro nero, dico. Il nostro? Il vostro nero. Nero, sì. Sì, una certa misura, sì. Ma d'altronde poi anche il vostro bianco e nero funziona molto a livello video, no? No, ma tra l'altro è bello il fatto che, cioè, la radio è radio non perché si debba parlare, no? La radio può essere radio anche in silenzio, perché il silenzio è un rumore. Certo. O è l'assenza del rumore, così come la televisione non è che deve essere per forza immagine, anche la televisione sarebbe bello se fosse ogni tanto privata dell'immagine, cioè trasmissioni, ecco, appunto, nere, cioè, mezz'ora di trasmissione nera, questo purtroppo non lo fa nessuno. No. È un peccato, insomma, non oscurare le immagini. È vero. Noi ci proviamo, per non con le mani. Loro hanno tolto le parole più di una volta, da quanto ha raccontato. Ma basterebbe un giorno di radio senza parole, completamente senza parole, di televisione completamente senza immagini, a far cambiare, penso, l'inclinazione di una popolazione. Sì. Cioè, quindi con uno schermo nero, insomma, si potrebbe rivoltare completamente il nostro paese, poi probabilmente il mondo, no? Ah, addirittura. Ma sì, si potrebbe. Esattamente. La percezione, infatti. La percezione. Questo sì, questo è vero. Ma effettivamente, quando eravamo in relazione qualche anno fa con un grande artista dell'immagine, Paolo Gioli, lo conosciamo. Infatti abbiamo organizzato all'epoca, in un altro contesto politico, una sua rappresentazione delle opere più importanti. Questo discorso lo faceva in maniera molto chiara, anche rispetto, appunto, all'immagine, a come viene manipolata sul piano commerciale da tutta una sorta di industria, no, cinematografica, che ha distrutto tutta una certa ricerca. Lui si rifaceva poi a dei grandi del Novecento. Ha fatto un discorso molto molto interessante rispetto, appunto, al ribaltamento di queste cose. E anche noi in radio ci colleghiamo a una certa sperimentazione che ha attraversato soprattutto, ad esempio, le radio libere negli anni 70, che ribaltavano ovviamente all'epoca un discorso istituzionale che era quello del monopolio Rai. Poi purtroppo dalle radio libere qualcun altro ci ha mangiato e sono nate le radio commerciali, insomma, è quello che producono, che insomma è quello che noi contestiamo. Cerchiamo di riportare all'interno di questo contenitore che noi diciamo ai confini dell'impero, perché andiamo di notte, notte fonda, la domenica, è un discorso radiofonico differente. Ci proviamo almeno, infatti abbiamo voluto costruire questo filo anche con voi, costruire insomma un'interazione all'interno di questa trasmissione, cogliendo l'occasione che verrete poi anche a Bologna dal 6 al 9 aprile. Ecco, rispetto a questo, no? Rispetto al vostro, la vostra opera, a me non piace molto utilizzare il termine spettacolo, anche se stasera affronteremo la tematica dello spettacolo in un'ottica ovviamente critica. Non usarla. Ecco, vedi, siamo d'accordo. Ecco, in questo discorso, in questa sperimentazione legata alla vostra opera che porterete a Bologna, almeno per dare qualche accenno agli ascoltatori, comunque una sorta di canovaccio di quello che sarà, lo potete fare oppure volete lasciare tutto aperto, tutto nero? Ma non è che ci sia canovaccio, diciamo che è qualcosa di estremamente sofisticato, però legato come al solito all'animo popolare. Cioè dovrebbe andare alle 8 di sera al posto del telegiornale, così come Joly, che noi conosciamo benissimo. Scandaloso che Joly non vada alle 8 di sera sui canali Rai, sui canali Mediaset, perché è qualcosa di talmente bello da vedersi che dovrebbe essere trasmesso quando c'è la gente sbagliata davanti al televisore, insomma. Quindi quello è il problema, così come il lavoro che facciamo noi. Cioè è un lavoro molto popolare, anche se si lega a delle dinamiche di estrema difficoltà. Anche se propone un'estetica completamente diversa da quella corrente. Ma il problema è che l'informazione parla di quello che non esiste, cioè tutto ciò che è informazione è chiaro che non esiste. Tutto quello che l'informazione non dice invece esiste, basterebbe rapportarsi così di fronte all'informazione. Cioè tutto quello che non sento c'è, cioè non dicono che c'è uno spettacolo, quello spettacolo c'è, non dicono dove, vado dove non so a vedere uno spettacolo che non hanno detto che c'è, sicuramente lo trovo lo spettacolo. Cioè ragionare al contrario, tutto quello che non viene detto esiste e è raggiungibile, anche se non sappiamo né come, né dove, né a che ora. E quindi andare pure fuori dallo schermo? Oltre lo schermo, oltre il quadro. Senti, Antonio, dici una cosa, sappiamo che non ami molto riferiti, perché tante volte t'hanno insomma attaccato il discorso, insomma, citandoti come continuatore, proseguitore di certe avanguardie. Prima citavamo, che ne so, i futuristi. E sappiamo insomma che non ami molto i riferimenti, e questo ci piace anche, perché insomma ci piace perderci dentro le cose tue, del tuo artigianato geniale comunque. E, però voglio dire, poi alla fine, appunto, Joly, questo nero, questo andare oltre lo schermo, oltre il quadro, non è un riferimento a cose appunto di quel tipo, a percorsi di appunto sviluppati in quel senso? Questo non lo so. Allora, i riferimenti per il lavoro mio di Flavia a livello estetico sono più difficili da ricollegare col passato rispetto a quello che diciamo. Cioè quello che diciamo non è nuovo, quello che diciamo è già stato detto, no? È stato detto, cioè quando dicono che diciamo delle cose che diceva Carmelo Bene, cioè quelle cose che diciamo che diceva Carmelo Bene le ha dette prima Artaud. Quindi tutto quello che diciamo quando non siamo nel pieno del virtuosismo è stato già detto, è giusto ribadirlo. Noi ribadiamo quello che è stato detto. Poi bisogna essere diversi nel momento in cui si porta in scena un'opera, si scrive un libro, si fa un film. Allora lì non bisogna assomigliare, ma somigliare a persone intelligenti del passato non è un reato, né un plagio, né un furto. Bisogna non somigliare nell'esercizio del virtuosismo, ecco. E spero di aver risposto un po'. È stato chiaro, no? Assolutamente. Fabia, quegli spazi sempre quasi svuotati, sempre appunto quasi alla ricerca del nero, questa sera proprio sempre ci stiamo annerendo, tra poco ovviamente andiamo in pausa, in stand by totale. Anche il paese è un po' verso l'impero. Vabbè, bene, quello è un altro nero, vabbè, sì, lasciamo perdere. L'aria nera. Aria nera. Ma appunto questa ricerca, a noi sembra insomma quasi svuotamento della scena in cui appunto interagisce Antonio dando potenza appunto quasi a questo svuotamento. Per quanto ti riguarda, invece ha dei riferimenti, ha dei punti di raccordo con qualche autore. Non che vogliamo rompere le balle con questa storia qua dei riferimenti per forza, però. Io mi ispiro all'arte contemporanea, ho iniziato il mio lavoro guardando Fontana, Fausto Melotti, Robert Morris. Filippo Morris erano le sigarette. Infatti, non è che hai fatto un connubio Philip Glass, Morris? Neanche fuma. Ispira Morris. È bello fumare comunque, siamo tabagisti. Noi siamo tabagisti. Io sto fumando adesso. Io ho fumato poco fa. Vedi. Noi vorremmo fumare, però i pirimpianti già sono vecchiotti, insomma, poi qua si rovina tutto. Vabbè, fumiamo noi per voi da qui. Bravo. Dai, va. Così. È un sacrificio. Ecco. Fumate anche in scena? Sì, anche sul palco certe volte, di nascosto. Che è bello, insomma, fumare di nascosto. Sì, è vero, si risveglia un certo sentimento bambino che abbiamo dentro di noi, quello che ci aiuta poi nella creazione. Senti, Il fatto di ispirarsi, questo, cioè, io mi ispiro a tutto quello che passa, tutto quello che si sente. Noi viviamo in questa realtà così vera, no? E la capiamo male, e poi quindi la ridiamo completamente astratta, che poi somiglia stranamente alla realtà. Questo è. Sentite, una domanda che ci viene spontanea. Adesso arriverete a Bologna. Sorge. Vabbè, sorge il sole. Speriamo, domani partiamo, speriamo. Sorge l'aria sole, nera sempre. Sorge il sole dell'avvenire. Allora, dal 6 al 9 aprile sarete qua a Bologna. Sapete che qua siamo in campagna elettorale. Noi abbiamo avuto già la comunicazione che non possiamo, devo inguaiare. Vabbè, farete qualche provocazione. Tanto lo dicono loro, quindi. Ma noi non sapevamo che c'era la campagna elettorale a Bologna. Sì. Perché cosa si vota? Perché non si vota per nessuno. La realtà dei fatti è questa: non si vota proprio per nessuno. Ma da anni che non si vota più per infatti, nessuno. Il sindaco. Fanno le votazioni per il sindaco. Dunque c'è il rinnovo, dato che c'è un commissario straordinario. Allora noi ovviamente siamo sotto cappa, no? Anche noi non possiamo parlare, ad esempio, in radio direttamente. Ma farete qualche provocazione sul piano? No. Beh, non sapendolo per niente, che il sindaco. Beh, vi diamo una dritta a noi, no? Così. Ci avete dato qualche idea, vediamo se lo incontriamo. Cioè, noi non sappiamo quali sono i candidati, però se li. Quindi anche incontrandoli non. Anche perché non si può dire nemmeno chi sono in radio? Possiamo dire niente. Possiamo dire però che non ci interessa. Perché uno si chiama Pinco e l'altro Pallino. Allora siamo in democrazia veramente, se è così. Perché noi non sappiamo niente, voi non dite niente, quindi è vera democrazia. Cioè, siamo in ottimismo democratico. Ottimismo democratico. Però questo del fatto che si vota, tanto si vota, prima o poi si vota dappertutto, quindi. Infatti. Si vota anche in 7, 14, 21, 28, due volte. Oh, è quello che. Ecco, vedi? Vota, sì, sono due votazioni, 7, 14, una è sulla sanità, cioè sulla personalizzazione del rumore della sirena dell'ambulanza. E un'altra invece sul finanziamento statale alla cultura, dove vengono aboliti tutti i finanziamenti pubblici alla cultura e niente, chi deve fare Madame Butterfly senza i soldi la fa saltando con le braccette emulando la farfalla. E tutti pensano che sia una protesta nei confronti dei tagli, cosa che, come è ben risaputo, a noi è quello, è lo spettacolo in realtà. Infatti a voi interessa noi poco. Noi ci siamo tagliati già da soli, sì, quindi di questa crisi, purtroppo, mi dispiace dirlo per chi la sente, noi non la sentiamo perché non abbiamo mai preso nessun soldo allo Stato. Infatti, questo si leva a noi, non ci impoverisce. Per noi è sempre uguale. Per noi è sempre primavera. Allora, ci siamo, tu sei contento? Vedo con la faccia. Io non mi ho preso invece la sudarella. Siamo un po' sudati perché c'è un caldo osceno qua in studio. Anche noi un po' ci siamo. Ma dove state adesso? Siete a Roma? Ad Anzio. Anzio. Ma dove vivete? Dove fate più che altro i lavori? Cioè dove create? Domanda da 100.000 sì. dollari questa. Anzio Flavia, Nettuno io. Perfetto. Sono a due paesi attaccati, insomma. E poi insieme ci vediamo a Nettuno, che c'è uno spazio per fare le prove che ci ha dato il comune. Ah, quindi ci avete qualche cosa del comune, ma... Il comune come lo Stato dovrebbe dare gli spazi e non i soldi. Ecco, perché infatti. Se tu hai uno spazio non è che ti copre il culo, come si dice, no? Sì. E quindi... E con lo spazio tu devi poi lavorare. Noi da quando siamo giovanissimi che ragioniamo così. Lo spazio devi farci qualcosa dentro. Appunto, siamo in provincia perché c'è più spazio, è più facile lavorare su cose grandissime. Fuori dal quadro, pure lì, nel decentramento. Sì, non c'è niente, qui non c'è a parte il mare non c'è niente, quindi o muori, come dice Flavia, muori socialmente, che è la morte sociale. Anche nelle città ultimamente, insomma, non è che c'è soprattutto traffico, rumore, cattiva vita. Però non c'è il mare. Però non c'è il mare a Bologna. Però c'è il fiume Reno. Sì. Portateci un po' di mare. Ecco, portateci un po' di mare. Qualche immaginetto, dai. Qualche quadretto. Ma pure i secchielli. I secchielli, ci porti della sabbia. Ma proprio anche l'acqua di mare. L'acqua, sì. No, però sembra, ma è veramente... Cioè, qui non c'è un teatro, i cinema sono multisale che fanno vedere solo delle cose appunto che incassano di più, quindi i film non arrivano. Roma è a 60 km, non sempre c'è quell'elasticità di dire vado, quindi rimani, ignori, e ignorando diventi ignorante, man mano ti purifichi, ecco a che serve la provincia se uno parte colto. Giusto. Ma se uno parte ignorante è finita, ma se uno è colto la provincia recupera quello che era, insomma. Quindi tutti in provincia, potremmo spostarci tutti in provincia. Ma io vengo, tu vieni dalla provincia, io vengo dalla vabbè, provincia, ho capito, però città, vabbè che Bologna è piccola, però... un po' triste, però potremmo fare... Ma non a Paisea, andiamo a fare i cretinati, tu sei stressato, lavori e basta. E tu, lavoro, quando lavoro, io quando non lavoro, sono stressato. Appunto, quindi andiamocene in provincia, vediamo se... che ne so. Così produciamo qualcosa. Sì. Anche noi lavoriamo e basta, No, ma quello sì, è un lavorio però il vostro. Infatti, il nostro è proprio lavoro, proprio di quello, mumunazzare, insomma. Sarebbe meglio fare altro. Ma non è vero, state parlando con noi, pensa quante persone vorrebbero a quest'ora. È vero questo. Mica facciamo un'intervista a quest'ora. No, è vero, pure voi avete ragione. Ma senti, mi è venuta una cosa in mente, però non so se... Sei sicuro? Infatti mi sento un po' insicuro, la sudarella qua continua. No, però appunto su questo fatto qua del privilegio, no, tra virgolette, di qua avere possibilità nel nostro piccolo di aprire dei microfoni e poter insomma dire la nostra su un po' di cose, il fatto appunto di stare su un palco e poter dire la propria, cioè come si sfonda sto diavolo di palcoscenico di microfono. Ce l'avete un'idea su questa cosa? Penso che insomma vi siete posti questo privilegio? Che cosa? Per abbattere questo privilegio che poi dà una sorta di potere, intendi? Infatti. Sì, come si annienta questa distanza tra palco, tra autore, pubblico, tra appunto chi trasmette, chi riceve, cioè. È semplice annullarla, cioè quando non c'è lo spettacolo bisogna dare l'impressione al pubblico che io lo faccio benissimo in modo naturale, che siamo delle persone come loro, insomma, cioè siamo delle persone umane, anche gentili, insomma, gentili anche in modo masochistico certe volte. Però poi bisogna, quando uno sta sul palco, far capire al pubblico, non è questo l'esercizio del potere, che siamo più bravi del pubblico. Perché altrimenti il pubblico farebbe quello che facciamo noi, invece fa il pubblico. E lì si recupera il rapporto, cioè quando non si gioca su un terreno comune, quando chi sta sul palco dimostra la sua destrezza a chi sul palco non ci sta, scendendo dal palco, poi ritorniamo a essere quello che siamo. Quindi non è un esercizio del potere, è necessario che sia così, altrimenti facciamo teatro civile, insomma. È più che altro comunicazione, noi comunichiamo. Antonio, vabbè, è un super comunicatore, in più c'è il colore, c'è la forma, c'è la luce, c'è una realtà che avvolge in dimensioni fantastiche. Quindi nessuno vuole dare una soluzione, né il colore né Antonio con la parola e il suo movimento. Ma soprattutto c'è il punto di partenza, che non è un teatro come dicevo prima, di impegno sociale, di impegno civile, che tenta di avvicinare delle problematiche al pubblico. Ecco, lì c'è lo sbaglio. Lì si abbatte la barriera del divismo, perché non è più divistico un tipo di teatro che prevede la conoscenza del pubblico dell'argomento che si sta trattando. E lì quindi si crea il classismo, si crea l'esercizio del potere, cioè ti obbligo a sentire quello che già sai. Nel caso nostro no, cioè senti quello che non conosci, ma io non ti obbligo a sentirlo, ti puoi distrarre, tanto ci rientri dopo 5 minuti, perché è elastico, non è legato alla contingenza, all'attualità, insomma. Quindi quello che sembrerebbe teatro, cinema anche a questo punto impegnato nel senso che culturalmente o fa una sorta di documentarismo civile, poi in realtà questo esercita il potere dell'obbligo da parte di chi vede di interessarsi di questioni che già sa, cioè parliamo di cose che tu conosci. E poi è didattico, noi siamo, cioè noi vogliamo giocare, non vogliamo fare i maestri. Bello, direi proprio bello, dentro anche le nostre corde. Cioè parlare di sterminio del passato non ha senso, lo sterminio è in pieno atto. Appunto. Parliamo di... cioè dobbiamo parlare dello sterminio contemporaneo, non dei morti già morti, quando ci sono vivi che stanno per diventare morti, insomma. Quindi è più facile parlare di ciò che già si è visto, insomma, no? E lì c'è l'esercizio del potere, ecco, al quale noi rinunciamo, insomma. Siccome stiamo per arrivare al GR, quindi all'informazione, ecco, ecco. Ah, te lo facciamo noi GR. Fatelo voi. Bello, GR di Antonio Rezzo, allora, Flavia Mastrella. Fateci un GR. Il GR io lo farei, ecco, come dicevamo all'inizio, muto, silenzioso. E quindi ognuno si immagina, che ne so, quanti ne sono sbarcati oggi. Cioè, te lo immagini, dove è questo film? E le donne non le fotografano mai. Ci chiedevamo questo, infatti. Cioè, come mai sbarcano solo uomini? Infatti. Le donne non ci sono. No, neanche i bambini. È vero. È un'esigenza prettamente maschilista lo sbarco in Normandia, secondo me. Non è Normandia, dove non stanno sbarcando? Dove stanno sbarcando? A Lampedusa. Poi vanno a Manduria. E poi vanno a Manduria, a Lampedusa. Non vengono inquadrate varie tipologie, insomma, pochi anziani. Sembra che... Dalla guerra non scappano le famiglie. Sembrerebbe di no. Non ci sono, non sono dentro il quadro dell'informazione. Non ci sono donne, non ci sono bambini, non ci sono vecchi. Vecchi. Ah, ecco. Vabbè. Questo è vero. Però vabbè, perché non vogliamo mica rovinarci la serata adesso della cosa della Normandia, no? No, hai ragione. Normandia, però andiamo oltre. Con qualche altro sbarco, insomma. Un altro sbarco, quale altro sbarco? Ma sbarchiamo Piero Ciampi, vi piace? Piero Ciampi? Piero Ciampi vi piace? Sì, Piero Ciampi penso che sia stato un buon presidente e che abbia fatto, insomma, quello che doveva fare, ecco. Sì, se ve lo dedichiamo adesso Piero Ciampi. No, non lo so, che non lo sa, lo sappiamo che non è il presidente. Ah, non era presidente, io sapevo che era presidente di qualche società. Avete creduto alla nostra ignoranza profonda. Ma no, siamo noi che siamo gli ignoranti, che facciamo i colti per nascondere. Facciamo finta, sì. Facciamo finta di essere sani. Ma lo mandate adesso? Sì, ve lo mettiamo.

è diventata un volante. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. È quello che fai tu, Max. Antonio, Flavio, andate, camminate, lavorate voi? Sì, abbiamo fatto qualcosa così mentre aspettavamo. Del tipo? Niente, ho preso dei giocattoli. Oh, bello. Che tipo di che tipo di giocattoli hanno Flavio Mastrella e Antonio Rezza? È un fil di ferro rivestito di come di spugna. Di come una peluria. È un fil di ferro rivestito di peli. Beh, bello. Un po' come te, insomma, no, Max? Spirale, insomma, è plasmabile, no? Adesso stiamo facendo delle spirali. La sera noi a mezzanotte e mezza iniziamo. Sera. Siete mattinieri? Va a finire che siete mattinieri. Sì, quando siamo ansio, sì. Appunto, la sera c'è poco da fare. Abbiamo fatto fare tardi. Stasera sì. Non vorremmo dare un'idea, cioè, di una vita triste la nostra. No. Cioè, alle persone tristi non ci si avvicina volentieri. Quindi noi, ecco, siamo veramente contenti. D'andare a letto presto, insomma. No, di fare quella speranza. Niente felice. Anche perché domani sera saremo lì a Bologna. Già domani? Allora, domani siamo lì e preparato, insomma, un servizio d'ordine adeguato. Anche perché arriviamo anche noi, dunque, come dicevi tante volte tu, Antonio, dobbiamo stare attenti, no? Alle nostre presenze sovversive. Ma noi arriviamo domani perché facciamo il premontaggio dopo domani e poi, insomma, arriviamo sempre un giorno, due giorni. Beh, giusto, chiaro. Ricordiamo ancora, per coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso, l'opera, usiamo questo termine, l'opera abbastanza importante, opera, va bene. Il titolo che è 7/14/21/28. Perfetto, da mercoledì 6 aprile a sabato 9 aprile alle 21 ai Teatri di Vita Bologna. Dunque, andiamo in massa per fare altro. Ah beh, proprio Antonio e Flavia, bisogna fare queste cose, scusa. Andiamo a fare da qualche altra parte, scusa. Vabbè, potrebbe essere uno stimolo. Cioè, se sei così minaccioso. Ma lo stesso. Allora, a voi va bene, facciamo un assalto al palco, che ne so, stile anni 70. A Bologna abbiamo fatto una volta il teatro Odeon, è possibile, tanti sì, anni fa, c'era la moschea, o sbaglio? Sì, c'era teatro Odeon, come no? C'è ancora. Teatro Odeon, uno spettacolo che era veramente anticlericale, ma non sapevamo che era un teatro legato alla chiesa. Mi ricordo che c'erano degli abbonati che andavano via, letteralmente scomparsi, le sputazzate, le palline insalivate, e ci fu veramente un... solamente persone anziane, siccome era uno spettacolo contro la nascita e contro la vita di chi è in vita, di chi è già nato, quindi contro l'esistenza, venivano brutalizzati i bambini, gli anziani nel testo dello spettacolo, e gli anziani che erano a vedere lo spettacolo ci presero proprio in parola, pensavano che fossimo così. Ma anche a male parole, mi sa. No, non tanto, se no, ne andarono un po', 3-4 anni andarono via, ma noi... Il test è così, cioè, quando uno scrive è così. Va bene. Vi ringraziamo tanto. Vi ringraziamo tanto, Antonio e Flavia. È stato un piacere veramente, speriamo anche in futuro di mantenere un certo filo. Ma guarda, speriamo di no. Se venite vi facciamo vedere questi bastoncini di pelo. Bello, ecco, quello, me ne regali uno, Flavia? Sì, li porto. Portane due almeno. Vuoi anche tu? Sì, perché secondo me sono molto creativi. Ve li regaliamo. Va bene. Grazie. Grazie ancora. Ciao. E a presto. Ciao, grazie.